numero 243364. 243364. Diverso abitante, piazza Tele, cambio. Non è paura di niente, tu, vero? Non è paura di niente. Domani vedrai quando ti arrivano i carabinieri a casa tua, non preoccuparti. Il numero tuo ce l'ho qua, 243364. Uno dice che sei Armando, ma non ci credo, perché Armando parla con la voce sua. Vai, però beh, vai. Ma non ti è bastato quando ti ho chiamato sul 9, eh? Ti passa sul 9 se hai coraggio, Froscio.